Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. E che dire poi di tutti quei potenziali lavoratori, specialmente dei giovani, che prigionieri della precarietà o dei lunghi periodi di disoccupazione non vengono interpellati da una richiesta di lavoro che dia loro, oltre a un onesto salario, anche quella dignità di cui a volte si sentono privati? Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Le parole di Papa Francesco sui giovani in occasione del Giubileo delle Imprese aprono la nostra edizione. Francesco ha lanciato un'invettiva anche contro le raccomandazioni, male tipicamente italiano come ai noi, ben sappiamo. E conferma l'Ocse mobilitare un ampio spettro di politiche per migliorare le opportunità di impiego per i disoccupati e facilitare il loro ritorno al lavoro resta una priorità per le riforme in Italia, dato che la disoccupazione rimane molto alta, soprattutto tra i giovani. E non dimentichiamo che proprio la disoccupazione giovanile è tornata al 39,3%, il valore più alto da ottobre, mentre crescono gli occupati over 50. Oggi restate con noi perché vi proporremo una puntata speciale. Siamo andati fino in Turchia per raccogliere testimonianze di italiani under 40 espatriati. Giovani Talenti fa tappa a Smirne, sul mare Egeo, per partecipare al primo convegno italiano a Izmir, organizzato tra gli altri da Consolato e Comites. Tra pochissimo le storie che abbiamo ascoltato in Anatolia. Prima però qualche dato per farci riflettere. L'Istat fotografa l'Italia come un paese per vecchi. L'anno scorso si è registrato un nuovo record storico negativo, il dato peggiore dall'Unità d'Italia. Solo 488.000 i nuovi nati, mentre i decessi sono aumentati del 9%. Il paese soffre anche gli addii dei connazionali. Ben 100.000 persone hanno lasciato la penisola e trasferito la loro residenza oltre confine. Nello stesso periodo, sempre secondo l'Istat, i rientri si sono fermati a quota 28.000. Il saldo negativo è evidente. E a proposito di chi ancora minoranza torna in Italia, è il momento della nostra rubrica mensile dedicata. Controesodati al suo sesto appuntamento vi racconta oggi la storia di Pierpaolo Vico, 38enne medico e ricercatore rientrato dagli Stati Uniti. Vi ricordiamo che la rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione Italents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ora la storia di Pierpaolo Vico. Sono andato perché occupandomi di glaucoma, che è una patologia del nervo ottico, volevo un po' approfondire le altre patologie del nervo ottico. Dato che in Italia e in Europa in generale non è molto sviluppata una branca che esiste negli Stati Uniti e in generale nei paesi anglosassoni che si chiama neuroftalmologia, ho seguito un congresso in Italia, di cui pochissimi che si organizzano di questa disciplina, e ho incontrato un professore americano di cui avevo letto molti lavori, quindi molti studi fatti, e gli ho chiesto di poter frequentare il suo reparto a Los Angeles. E quindi dopo qualche mese si è presentata un'occasione di presentare un elaborato scritto per poter partecipare a una borsa di studio a fini ovviamente scientifici, e inaspettatamente è arrivata la risposta positiva. Quanto sei rimasto negli Stati Uniti? Sono solo 4 mesi perché mi dovevo attenere sia a delle tempistiche che l'ospedale regolava e sia al budget della borsa di studio. E poi sei tornato in Italia? Sì, certo, sì. Finito quel periodo sono rientrato al lavoro, dove comunque continuavo a lavorare. E di cosa ti occupi? Sempre di glaucoma, e adesso da un anno abbiamo iniziato l'ambulatorio di neuroftalmologia anche qui nel mio ospedale. E quindi adesso cominciamo a vedere un po' i frutti del lavoro che è stato fatto lo scorso anno. Quanto è stata importante l'esperienza americana per il tuo lavoro successivo in Italia? È molto importante, sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, sia dell'approfondimento di alcune patologie e approfondimento delle metodologie di ricerca. Hai un rimpianto di non essere rimasto negli Stati Uniti? Sicuramente un'esperienza molto, molto appagante, sia umana che professionale. Ovviamente le possibilità che si hanno lì sono tante, però anche qui, sono tornando qui in Italia, che alla fine è la mia patria, ho comunque gettato le basi per continuare il lavoro che ho iniziato a imparare lì. Siete controesodati, volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nella penisola anatolica. Facciamo tappa, come annunciato, a Smirne, dove ci troviamo ora. Sono Martina Scardilli, ho 25 anni, vengo da Bologna, ma ho una famiglia un po' toscana. Qui a Smirne faccio mosaico. Non so se tornerò in Italia. Io sono Paolo Pinzuti, ho 37 anni, sono della provincia di Varese. Qua a Izmir ho fondato un'azienda di consulenza in comunicazione e marketing sul tema della bicicletta. Mi piacerebbe tornare in Italia, ma sicuramente sotto auspici migliori. Iniziamo a raccontare le vostre storie partendo con Martina. In Italia è opinione comune che studiare all'Accademia di Belle Arti possa portare solamente a un futuro incerto fatto di un susseguirsi di impieghi precari, annoti con amarezza nell'email che hai mandato a giovanitalenti@radio24.it. In Turchia come funziona? In Turchia funziona che c'è una maggiore valutazione di quelli che sono i mestieri delle mani, quindi l'arte, ma non solo, anche l'artigianato, e in un certo senso si dà più valore a quelli che sono i vecchi, come dire, mestieri di una volta, quindi anche il mosaico artistico qui comunque ha una valenza maggiore, più riconosciuto rispetto all'Italia. Comunque è una cosa di nicchia, però si trova un'adesione maggiore sia per quanto riguarda corsi, quindi studenti che vogliono imparare la tecnica, sia per persone che invece commissionano lavori privati per il loro interesse. Paolo, invece, a te chiedo, perché fondare un'azienda in Turchia quando continui a lavorare in modo continuato con l'Italia? Qual è il valore aggiunto? Allora, in Turchia ci sono una serie di opportunità che in Italia non esistono. La prima su tutte è chiaramente la questione delle tasse. Qua in Turchia si pagano tasse che sono nell'ordine del 18% per quanto riguarda l'IVA, 15% per quanto riguarda le tasse sul reddito e 20% per quanto riguarda le tasse sul capitale. Questo a fronte chiaramente di un costo della vita che è un terzo. Lavorare, aprire un'azienda qua significa pagare meno tasse, significa permettersi qualche rischio in più, perché chiaramente in caso di errore il costo della vita permette di ammortizzare molto bene quelli che sono poi appunto eventuali problemi. Tra poco racconteremo anche cosa fate. Partiamo però velocemente con gli studi. Martina, cosa hai studiato? Io ho fatto il liceo artistico, l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, e poi ho fatto l'Erasmus all'Accademia di Belle Arti Nazionali di Istanbul. E lì poi si è concluso tutto. Sì, e poi sono rimasta in Turchia. Paolo? Allora, io ho studiato Scienze Internazionali e Diplomatiche a Forlì, poi ho fatto un master in Scienze del Lavoro all'Università di Firenze e all'Università di Brema, poi insomma la vita è stata un po' complicata e sono finito in Turchia. In un numero, il vostro voto all'Università Italiana, Martina? Ah, io un 9 glielo do. Paolo? Sì, anch'io un 9, non do 10 perché secondo me manca un po' l'aspetto dell'aiuto all'inserimento nel mondo del lavoro, però rispetto a quelli che vedo, ai colleghi di altre nazioni che ho visto in giro, la mia preparazione, per quanto non fossi uno studente modello, era decisamente superiore alla loro. Hai citato prima l'Erasmus, Martina, quanto ha inciso quell'esperienza sia nell'aprirti gli orizzonti sia nel determinare la tua vita successiva? Ma indubbiamente ha determinato molto in questi ultimi anni e mi ha insegnato un po' a cavarmela anche in situazioni un po' diverse da quelle che si possono avere a casa nostra, e sicuramente è una grande spinta a continuare a scoprire altre cose. E per te, Paolo, invece è stata molto importante l'esperienza in Germania di lavoro che hai fatto. Quanto ti è servita sia come condizioni di lavoro, di carriera, che hai sperimentato? Ma allora, l'esperienza in Germania per me è stata estremamente formativa, perché io ero nella situazione in cui avevo appena finito un master, parlavo 4 lingue e nonostante questa cosa in Italia non riuscivo a trovare lavoro. In Germania mi sono ritrovato a lavorare pressoché immediatamente in una multinazionale che mi ha dato fiducia e mi ha dato la possibilità di crescere, quindi indubbiamente da un punto di vista dell'autostima la cosa è servita molto, ma soprattutto è servita entrare all'interno di dinamiche aziendali che hanno delle logiche che vanno oltre la piccola azienda padronale, che molto spesso sono quelle che in Italia vanno per la maggiore. E qui ci arriviamo, perché tu, a differenza di Martina, un tentativo di controesodo, se vogliamo, l'hai fatto, cioè sei tornato a un certo punto in Italia dalla Germania, però qualcosa non ha funzionato. Cosa? Cosa non ha funzionato? C'è da dire che io sono tornato in Italia nel 2008, cioè quindi all'inizio della crisi, quindi è difficile dire esattamente cosa non ha funzionato. Forse probabilmente è che io non ero pronto per l'Italia, l'Italia non era pronta per me, c'era probabilmente tutta la questione della crisi. Indubbiamente ho trovato troppa prudenza da parte del mondo imprenditoriale italiano, la paura di perdere, quindi la paura di rischiare per andare un po' oltre e trovare qualche sviluppo ulteriore. Quindi forse è questa la cosa che ho mancato, che ho visto che mancava e quindi che poi vedo ancora adesso in Italia. Questo si è riflesso nel tuo percorso di carriera, che non è avanzato. Per poter avanzare professionalmente a un certo punto mi sono detto va bene, lascio tutto e... Ci arriviamo. Arriviamo qui a Izmir, arriviamo quindi in Turchia. Come ci arrivi, Martina? Io mi sono innamorata del cielo di questa città, siamo venuti un anno e poco più fa e abbiamo passato una giornata sul mare e abbiamo detto ok, è la prossima città, e sono rimasta a Istanbul per un po' di tempo prima e questa città è molto più vivibile e anche un po' più aperta, chiamano Izmir l'eretica e sicuramente rispetto ad altre città della Turchia è molto più europea, se vogliamo. Invece cosa ha portato te, Paolo, qui? Allora, Izmir è la città natale di mia moglie, quindi per me è stata una scelta abbastanza facile. Per fare cose era una cosa che non avevo ancora capito. Io sapevo quando ero in Italia che volevo fare qualcosa nell'ambito della mobilità, nell'ambito delle biciclette. All'interno dell'azienda per la quale lavoravo non mi era possibile farlo. Quello che ho fatto quindi è stato dare le dimissioni all'azienda. Sono partito per un viaggio di 4 mesi in bicicletta attraverso Sud America. Invece di rientrare in Italia siamo rientrati in Turchia, dove poi appunto ho avuto la possibilità e la voglia e le energie per mettere in piedi il mio progetto. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale da Smirne, in Turchia, parliamo della vicenda di Martina Scardilli e Paolo Pinzuti, giovani under 40 a distanza nella penisola anatolica. Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. Raccontiamo più nel dettaglio di cosa vi occupate, partendo ancora da Martina. Cosa fai? Io faccio mosaico, il che significa che ho uno studio assieme a una ragazza turca e realizziamo sia commissioni per privati, appunto, quindi basandoci sulle richieste del cliente e su quelle che sono anche le nostre idee, le mie idee, e si tengono corsi sulla tecnica. Io ho studiato a Ravenna, quindi insomma una base c'è, sì, e qui in Turchia devo dire che insomma il mosaico c'è, è una cosa che fa parte della storia del paese e manca magari un po' l'energia che abbiamo noi italiani, anche un po' più di intraprendenza, e quindi devo dire che in questo anno le cose stanno andando bene, quindi non mi dispiace, anche se devo dire non avrei mai detto avrei fatto mosaico. Sono capitata qui, è successo. È la vita. Esatto. Paolo, invece, tu un po' l'hai accennato, però nel dettaglio di cosa ti occupi adesso da imprenditore? Sì, allora, io nel 2013 ho trasformato quello che era il mio blog, dove parlavo di viaggio in bicicletta e di politiche della mobilità, ci ho messo insieme con altri blogger e abbiamo creato un portale che si chiama bikeitalia.it, all'interno nel quale parliamo appunto di ciclismo urbano, cicloturismo, politiche della ciclabilità e in generale di tutto ciò che è bicicletta. Questo portale è cresciuto molto, è diventato adesso uno dei principali probabilmente in lingua italiana sul tema. A furia di parlare di temi che in qualche modo erano alieni dal mondo della bicicletta in Italia, quindi il ciclismo urbano e il cicloturismo, sempre più realtà di promozione territoriale in Italia, piuttosto che hotel oppure città vere e proprie, hanno detto: visto che parlate così tanto di cicloturismo, visto che parlate così tanto di ciclismo urbano, noi abbiamo dei progetti che hanno bisogno di essere sviluppati, perché non ci aiutate a farlo? E quindi da qui è nata anche un'attività consulenziale che poi si è tradotta in eventi piuttosto che insomma attività di supporto in comunicazione e marketing per tutti coloro che in qualche modo hanno un progetto a pedali e lo vogliono portare avanti. Brevissimamente, vedete la Turchia come una terra di opportunità nel vostro lavoro, Martina? Sì, indubbiamente, anche se è diciamo è impegnativo avere a che fare con la cultura, perché comunque è una cultura diversa, e quindi vedo un buon futuro, ma ci vuole anche tanto tanto impegno e sicuramente rinunciare ad alcune cose che fanno parte poi di quello che è casa nostra. Paolo? Opportunità sicuramente sì, nel senso che poi in particolare se pensiamo al bagaglio culturale che abbiamo, per quanto mi riguarda, per quanto abbiamo in Italia sul mondo della bicicletta, noi siamo figli di Coppi e Bartali, quindi la bicicletta ce l'abbiamo nel sangue. Qua in in Turchia ancora è in una fase emergente, quindi insomma per chiunque abbia voglia di sperimentare nel mondo della bici, indubbiamente qua in Turchia c'è tutto lo spazio e ci sono poche competenze, quindi questa cosa è indubbiamente valida. C'è da dire che però la bicicletta ormai è diventato il sex symbol o comunque lo status symbol di tutto il mondo occidentale nel terzo millennio, quindi non vedo dove non ci siano opportunità in questo campo. Abbiamo due domande di rito, la prima la facciamo a Paolo ed è la nostra classica: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire. L'Italia dall'estero, io ritorno molto spesso in Italia, quindi la vedo anche molto da vicino, e l'Italia dall'estero la vedo come un paese che fa fatica a prendere delle decisioni e soprattutto di rimanere coerente con le decisioni che ha preso. Una proposta per cambiare, secondo me, io credo molto alla frase che dice "Divided we fall, united we stand", quindi noi cittadini, noi tutti quanti che vogliamo un qualcosa di diverso, un qualcosa di nuovo, dobbiamo renderci conto che nel momento in cui continuiamo a perseguire degli interessi individuali e non più degli interessi generali, siamo destinati a rimanere fermi come paese. Ci raggiunge ora Simone Favaro, cofondatore del magazine online Il Nuovo Levantino e tra gli organizzatori della conferenza italiana Izmir che ci ha ospitato. Allora, innanzitutto Simone, perché questo meeting di italiani Izmir e soprattutto cosa è emerso che ti ha colpito? L'idea della conferenza è nata da un semplice presupposto. In questi anni, in questi ultimi 2-3 anni, la comunità italiana a Izmir è cresciuta, però ci siamo accorti che era molto frammentata e soprattutto non solo frammentata, ma a compartimenti stagni. La comunità levantina non conosceva la comunità nuova dei nuovi immigrati e quindi abbiamo deciso di metterli tutti assieme. Quanti italiani ci sono a Izmir? Ad oggi nella circoscrizione consolare di Izmir sono 1350, di cui 1100 abitano proprio ad Izmir e di questi circa 300-400 sono levantini. Tralasciando la comunità storica levantina, chi arriva adesso che profilo ha sommariamente? Sono o professionisti che vengono a lavorare per conto di multinazionali, quindi ad avviare nuovi stabilimenti o avviare nuovi progetti, sono italiani che vengono assunti da imprese turche che vogliono portarsi a casa competenze specifiche nel top management, sono docenti di lingua italiana che nelle università turche trovano spazio per poter diffondere la conoscenza della lingua, sono persone che vengono qui per motivi affettivi o per motivi personali. Tu di cosa ti occupi qui a Izmir? Io mi occupo del Nuovo Levantino, mi occupo di marketing e comunicazione, faccio progetti di marketing online e comunicazione online per conto di realtà che molto spesso sono realtà estere, non turche. Un'ultima cosa ti chiedo invece, una dritta insomma, per chi ci ascolta magari sta pensando un espatrio in Turchia, perché no? Se lo consigli, dove, in quali città e in quali settori ci sono più opportunità? L'espatrio in Turchia posso capire che possa spaventare molti connazionali, perché comunque è un paese dalla cultura diversa rispetto alla nostra e che non è stato mai ben promosso, in particolare dal 2013 ad oggi. Perché venire in Turchia? Beh, sicuramente perché se si ha un profilo di competenze di alto livello, medio-alto livello, qui c'è fame di competenza, quindi le opportunità possono venire. In secondo luogo, perché comunque è un effettivo ponte tra Oriente e Occidente, quindi ciò che si può fare da qui difficilmente, anche col mercato medio orientale, difficilmente si può fare dall'Occidente. Dove andare? Beh, sicuramente la prima meta che a tutti verrebbe in mente sarebbe Istanbul. Istanbul è ricca di opportunità, ma comincia a essere satura. Ci sono zone come Antalya, come la stessa Izmir, come tutta la costa dell'Egeo, che in realtà oggi offrono molte più opportunità di quelle che possa offrire un Istanbul che è ipercompetitiva oggi. Grazie a Simone Favaro, in bocca al lupo per le tue attività. E domanda di rito finale per Martina invece: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Di pensarci bene, ma di essere coraggiosi, perché secondo me con un po' di impegno e buona forza di volontà e un bel sorriso, che serve sempre, si può fare tanto, perché secondo me all'estero gli italiani in un certo senso vengono valutati in maniera più positiva. In Italia le nostre professionalità comunque spesso si perdono, comunque non viene data l'opportunità di lavorare nel campo nel quale abbiamo studiato. All'estero ovviamente dipende dove, ma secondo me si può giocare bene. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Torna all'appuntamento con la consueta puntata mensile della nostra rubrica L'Ideogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia fa il punto dopo il primo semestre sui messaggi più importanti lanciati a partire dall'autunno agli aspiranti emigranti in Estremo Oriente. Un piccolo bigino, insomma, per non sbagliare le mosse. Il messaggio che ho voluto trasmettere in questi primi sei mesi della nostra rubrica dedicata alle opportunità di lavoro in Cina è quello di guardare la Cina con curiosità, ma soprattutto con realismo, senza lasciarsi incantare da chi promette opportunità di guadagni facili o stage che, pagati, notare, dallo stagista, anche 8.000 euro per sei mesi, spesso offrono l'accesso ad un altro stage o un altro lavoro temporaneo o a nulla. Oggi in Cina si può ancora trovare lavoro e crescere professionalmente più di quanto si crescerebbe in Italia. Ho spesso sentito storie di giovani manager che mi hanno raccontato che prima dei 40 anni ricoprono in Cina una posizione che forse in Italia avrebbero ricoperto a fine carriera. Ma il cerchio di opportunità si è ristretto, soprattutto a un'elite di super tecnici. Il protezionismo locale con visti e permessi di lavoro è aumentato, la preparazione dei giovani cinesi e il loro livello di internazionalizzazione è notevolmente cresciuto in molti settori. Ricordo che la Fondazione Migrantes ha pubblicato un recente studio sulla migrazione degli italiani in Cina, di cui abbiamo parlato nella prima puntata, in cui quasi la metà degli intervistati ha dichiarato redditi inferiori ai 1.000 euro al mese. Solo un terzo è assunto da una società italiana o straniera, il 12% assunto da una società cinese, l'11% ha un'attività in proprio, mentre la maggioranza, il 34%, è in Cina per uno studio o per ricerca, insegnamento o per fare uno stage. Quindi se prima si veniva in Cina un po' all'avventura, oggi è fondamentale arrivare con un piano preciso, che sia un piano di studio professionale. E i giovani che conosco, che sono in una situazione professionale migliore rispetto ad altri, sono quelli mandati in Cina dalla casa madre con un contratto di alcuni anni per progetti specifici, normalmente in settori ad alto valore tecnologico. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE, dibattetene in 140 caratteri. E a proposito di hashtag, occhio anche a Ricerca Precaria, mobilitazione nazionale per il riconoscimento della ricerca come lavoro. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di marzo: siete contro esodati in Italia? Avete ancora dubbi su quali benefici fiscali si applichino, se quelli della vecchia legge 238/10 o quelli della nuova normativa? Vedete ancora un'enorme confusione e non sapete come orientarvi? Beh, mandateci le vostre email, le vostre domande e le vostre riflessioni. A fine marzo proveremo a darvi una risposta. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi, aspettiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Preparatevi, perché tra 7 giorni torna la nostra iniziativa Giovani Talenti in Europa. Per voi in palio viaggi studio a Strasburgo. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.